Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci di nuovo insieme, una buona giornata da Deborah Rosciani, buon 4 gennaio a tutti, ma è iniziata il 2 gennaio, proprio all'indomani dei brindisi per l'arrivo del 2011, la nuova stagione dei saldi. Precisamente domenica si sono aperte le danze in diverse città del sud, a Napoli, a Potenza, a Palermo, a Catanzaro e a Campobasso, mentre in gran parte d'Italia si attende l'Epifania e attendiamo io e Gaia trepidanti la giornata dell'Epifania, appunto il 6 gennaio qui a Milano. Partiranno invece ancora più tardi in Basilicata, Sardegna 8 gennaio, Valle d'Aosta il 10 gennaio. Per quanto sia naturalmente ancora troppo presto per trarre delle conclusioni, come ogni anno hanno già iniziato a diffondersi previsioni e calcoli per una stagione che assume ogni anno un'importanza strategica. Visto il periodo di crisi, l'andamento delle vendite al ribasso diventa un elemento fondamentale di cui tenere conto nel tirare le somme del bilancio complessivo stagionale. Secondo un'indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà con i saldi circa 400 euro, 173 euro a testa pro capite, investiti ed accessori, per un totale di 6 miliardi e 200 milioni di euro, il 18% complessivo del fatturato annuo di questo comparto, che è sicuramente il più interessato dalle vendite a prezzi scontati. Secondo le associazioni dei consumatori, invece, ogni persona spenderà molto meno, circa 100 euro a testa, approfittando dei saldi. E come ogni anno, non si fanno attendere consigli su come comportarsi e suggerimenti per non restare delusi dai nostri acquisti, perché magari proprio invogliati dai prezzi più bassi un po' ci gettiamo all'avventura nell'ambito appunto dei saldi e qualche volta rischiamo anche di non fare l'acquisto giusto. Quindi attenzione alla qualità, attenzione alla lettura delle etichette, alle regole per il cambio dei prodotti e per la possibilità di utilizzo delle carte di credito. Insomma, stamattina ci sono tante cose da affrontare. Intanto io vorrei coinvolgervi come sempre, quindi raccontateci se siete pronti a dare l'assalto ai negozi in questi giorni o se magari proprio anche per la crisi dovrete rinviare nuovamente, nonostante i saldi, gli acquisti sui quali vorreste invece gettarvi. Raccontateci un po' invece se ci sono degli articoli sui quali avete messo l'occhio prima delle feste e state aspettando proprio adesso la partenza degli sconti per l'acquisto del vostro sogno. Noi stamattina discuteremo un po' di tutto questo con Carlo Massoletti, vicepresidente di Federmoda Commercio e presidente di Confcommercio Brescia, che saluto, non è ancora al telefono con noi ma lo stiamo chiamando. Primo Mastrantoni, segretario dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Segretario, buongiorno e buon anno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei. E poi abbiamo interpellato anche Luca Marzola, responsabile marketing di Fashion District, perché anche gli outlet sono stati presi d'assalto in questi giorni, nonostante nelle cittadelle della moda gli sconti e i prezzi vantaggiosi siano la condizione di tutto l'anno. In questo periodo i consumatori di questi centri ne approfittano ancora di più. Marzola, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E grazie di essere con noi. Tra l'altro l'iniziativa di Fashion District è Saldi and the City e prenderà il via il 6 gennaio, ma tanti altri grandi cittadelle della moda sono già partite laddove ci sono appunto le regioni che lo permettano, soprattutto quelle del sud, come abbiamo già detto, che sono già partite con i saldi il 2 gennaio. Allora, per le vostre considerazioni. Ah, ecco, intanto abbiamo raggiunto Carlo Massoletti. Presidente Massoletti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. L'avevo presentata, ma ancora non era collegato telefonicamente con noi. Ricordo il numero verde per gli ascoltatori per intervenire, come sempre, l'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. La borsa molto positiva anche stamattina, ve ne ho parlato già durante il giornale radio, dopo i rialzi di ieri che, come dicevo, hanno davvero fatto brillare l'avvio dell'anno per i mercati azionari internazionali. Oggi non solo i rialzi si consolidano, ma anzi si estendono, perché Parigi segna un più 0,67%, un po' più moderato il rialzo di Francoforte, più 0,26%, Milano più 0,71% sul FTSE MIB, questo indice che ieri ha fatto soffrire non poco tutti gli investitori perché non riusciva ad esprimere la variazione percentuale corretta a colpa della scissione di Fiat, che ha determinato un ricalco, una riponderazione di tutto l'indice, una questione tecnica molto complicata e da comprendere, figuratevi da spiegare. E però insomma oggi la situazione è a posto, così come si è poi aggiustata ieri in tarda mattinata, anzi nel primo pomeriggio, e oggi abbiamo una situazione regolare e Milano lo stesso continua a correre, a brillare, e ancora merito dei titoli Fiat, soprattutto le SPA stamattina stanno ritornando a trovare il consenso degli investitori, più 3,84% per il gruppo. Ieri già in luce per oltre, le SPA hanno guadagnato 5 punti percentuali e anche oggi quasi più 4%. Gli investitori scommettono su operazioni straordinarie imminenti che coinvolgeranno Chrysler, mentre le industrial, prima ho detto c'era un rialzo di un punto, in realtà è stato un rialzo messo a segno per quasi tutta la prima parte della seduta. Adesso le industrial sono in calo di mezzo punto percentuale, quindi questo titolo, il gruppo che è nato dallo scorporo dalle attività auto, ha una volatilità un po' più amplificata in borsa. Exor meno un punto, quindi abbiamo completato il quadro della galassia Fiat. Exor è l'azionista di riferimento del gruppo, quindi addirittura in un paniere di 40 titoli ben 3 espressione del lingotto. Gli altri titoli in evidenza: Azimut più 2,76, Diasorin più 2, Banca Popolare di Milano più 1,50, Mediobanca più 1,48, Campari più 1,38%, Ubibanca più 1,36, Generali più 1,25. Il segno meno invece da stamattina è su Toz ed è ancora il peggiore della giornata, meno 1,37%, Mediaset meno 1,27%, Exor come vi dicevo meno un punto, il calo di mezzo punto è su Saipem ed Enel Green Power. L'euro sul dollaro adesso a 1,33,93, avete sentito appunto l'inflazione ancora ritornata a gravitare intorno al 2%, il petrolio che continua la sua corsa stamane sui mercati asiatici, il WTI, il greggio di riferimento americano, era a $91.40, il Brent di Londra a 94,81. Magari nei prossimi giorni dedicheremo una puntata di Salvadanaio esclusivamente al tema delle materie prime, un approfondimento che è già stato fatto ieri da Sebastiano Barisoni in Focus Economia, ma ci penseremo anche noi, insomma, a questo argomento, magari proprio nei prossimi giorni. Adesso lasciamo la borsa e andiamo al tema di oggi, tuffiamoci in un tema che ci piace molto, se non fosse che la crisi economica magari non ci permetterà quest'anno di approfittare così tanto dei saldi. Sentiamo un po' quali previsioni si fanno. Negozianti, acquirenti e blocchi di partenza per la stagione dei saldi 2011. La corsa è già iniziata il 2 gennaio in molte città del sud, fra cui Napoli e Palermo, mentre gran parte della penisola sta aspettando l'epifania per mettersi alla ricerca dell'acquisto più conveniente. Una tesa carica di aspettative per chi pensa che la crisi abbia portato molti italiani a rimandare le spese proprio per approfittare delle tariffe di fine stagione. Le prime stime di Confcommercio sembrano, a dire il vero, scongiurare il temuto crollo delle vendite nel periodo festivo, delineando il profilo di un consumatore prudente ma che non rinuncia alle tradizioni. Al tempo stesso si prevede che con i saldi ogni famiglia spenderà in vestiti ed accessori €410, 173 pro capite, per un totale di 6,2 miliardi di euro, il 18% del fatturato annuo di questo comparto. Bisognerà aspettare qualche settimana per fare il primo bilancio. Nel frattempo i commercianti mostrano un discreto ottimismo, considerando anche che, proprio per via di una stagione invernale comunque non troppo brillante, potranno fare affidamento su un considerevole stock di prodotti invenduti, quindi su un'offerta ricca in qualità e quantità. Più caute le associazioni dei consumatori, che come ogni anno raccomandano di evitare gli acquisti affrettati, verificando la qualità del prodotto, non lasciandosi ingannare da ribassi eccessivi, confrontando i prezzi e non dimenticando le regole che tutelano la nostra spesa durante tutto l'anno e che continuano ad essere valide anche nei giorni più caldi dello shopping scontato. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, mentre il nostro Filippo Aureggi in regia tecnica oggi mi stava già interrogando su che intenzioni avessi io per il 6 gennaio. Per la verità, insomma, non mi serve moltissimo, caro Filippo, però magari rivolgo poi la domanda a te, perché invece, visto che la famiglia cresce, e quindi congratulazioni, probabilmente dovrà fare già qualche scorta approfittando dei saldi. Detto questo, allora volevo subito sentire Carlo Massoletti di Confcommercio, vicepresidente di Federmode e presidente di Confcommercio Brescia. Le chiedo di aiutarmi, presidente, a chiarire un dubbio che un ascoltatore ci pone, Antonio, che ci scrive: perché i saldi partono in date diverse? Infatti noi ogni anno abbiamo, lo divulgate direttamente voi di Confcommercio, ma anche le altre organizzazioni del commercio, perché parte in date differenti? Credo di ricordare perché c'è proprio una disciplina regionale molto rigida a questo proposito. Sì, infatti la competenza della fissazione delle date inizio dei saldi è quella delle regioni, già sono loro che decidono e che regolamentano questo tipo di vendita. devo anche dire che rispetto al passato quest'anno Federmoda di Concommercio e Federdistribuzione hanno fatto un accordo e hanno cercato di portare avanti il concetto di data unica e ci siamo quasi riusciti, perché ormai si tratta solamente di due date diverse di partenza del saldo, il 2 gennaio e il 6 di gennaio, suddivise per regione, ma ormai diciamo che il range delle date di inizio dei saldi è particolarmente ristretto. E infatti entro l'8 gennaio si parte praticamente ovunque, la prima settimana diciamo dell'anno è cruciale, insomma non si può procrastinare. Insomma, speriamo quindi di aver accontentato l'ascoltatore. Intanto ci stanno scrivendo davvero in molti, e ancora Fabio, che è un altro ascoltatore molto affezionato della nostra trasmissione, ci dice: ma insomma, quali saldi? Proprio lei, che ha intervistato Marco Liera qualche giorno fa, che giustamente suggeriva di comportarsi con maggiore frugalità. Vabbè, Fabio, adesso voglio dire, se ci servono un paio di scarpe, magari abbiamo rinunciato a questo acquisto perché erano un po' troppo costose secondo il nostro budget a dicembre, magari ne possiamo approfittare adesso. Non ho mica detto che con i saldi dobbiamo buttare via i soldi, magari quell'acquisto rinviato in dicembre perché c'era da accontentare magari altri componenti della famiglia, magari i figli, magari adesso appunto se ne approfitta. Allora, primo, Mastrantoni, segretario di ADUC. Poi ci facciamo dire da Confcommercio che cosa si aspettano rispetto a questi saldi, perché secondo le loro previsioni in realtà ci sarà per persona così una spesa media di circa 173 euro. Secondo due vostre associazioni dei consumatori concorrenti, in realtà pro capite si spenderà circa 104 euro. Voi che cosa prevedete? Saranno anche quest'anno dei saldi un po' all'insegna della frugalità, come indica l'ascoltatore? Ma certamente, i dati che vengono emessi dall'Organizzazione di Commercio sono auspici. Come si fa a dire che si spenderà quella 450 euro a famiglia o 100 euro a famiglia? Ma poi ce lo facciamo raccontare allora come stimano questa cifra. Appunto, voglio dire, è una stima che poi deve essere verificata nella realtà e come abbiamo visto negli altri anni, le stime, gli auspici, i desideri o i desiderata di qualcuno, per carità legittimi, ci mancherebbe altro, poi non si sono verificati. Lo stesso succede per altri settori diciamo del commercio o comunque dei servizi. Quindi aspettiamo dopo i saldi, vediamo oltre il primo giorno, perché in genere il primo giorno c'è un po' un boom diciamo, no? Di acquisti, quindi siccome i saldi poi durano qualche settimana, quindi facciamo un confronto finale sui dati reali, non su quelli auspicati. No? Volevo anche dire che però questo ragionamento vale anche per l'associazione dei consumatori, come possono prevedere infatti, magari una stima in eccesso le organizzazioni del commercio. Infatti, noi non abbiamo fatto l'ADUC non ha fatto nessuna valutazione su quanto poteva spendere una famiglia si pensava che una famiglia potesse spendere, perché bisognerebbe fare delle indagini di mercato approfondite. Ma voi Mastrantonio non le fate mai o non le avete fatte quest'anno perché insomma temete che a causa della crisi in pochi ne approfitteranno? Nessun settore, per quello che riguarda gli auspici, noi tiriamo le conclusioni a fine periodo per tutti i settori, non solo quello del commercio ma anche per quello alberghiero, per esempio. No? Si dice prima delle vacanze prevista una presenza di tot milioni di persone, eccetera, poi magari non è vero, insomma, queste cose servono a lanciare, a sollecitare le persone o acquistare o andare in vacanza. Vediamo alla fine quello che succede. Noi infatti non ci proprio non va bene. Massoletti, ce lo spiega allora come siete arrivati a questi 173 euro stimati di spese media pro capite in questa stagione appunto dei saldi? Certo, ma peraltro guardi, sottolineo il fatto che si tratta di una stima, certo. E pertanto non è un dato certo, è un dato così che ci serve così per capire un po' quale sarà l'orientamento dei consumatori o comunque il presumibile orientamento dei consumatori. Beh, deriva sicuramente da indagini fatte sul campo, dall'analisi dei dati storici, dall'analisi dei dati di trend e alla fine vengono queste cifre. Voglio ricordare che l'anno scorso le associazioni dei consumatori avevano predetto che sarebbero calati del 30% i saldi, invece poi a consuntivo abbiamo visto che le stime di Confcommercio si sono rivelate più vicine alla realtà di quanto non lo fossero quelle dei consumatori. Allora avrà già visto che Codacons prevede un flop, un tracollo delle vendite fino al 20%. Quest'anno sono un po' meno severi, però insomma sempre un bel crollo si descrive. Sì. Lo scenario in cui ci muoviamo è uno scenario difficile di contrazione dei consumi e questo evidentemente va considerato. Però devo dire che i saldi sono sempre un buon stimolo per i consumatori. Quanto sconto si farà, Massoletti? Perché leggevo appunto che le presidenze presidente della sua organizzazione Renato Borghi diceva che la coda della crisi si è resa evidente per il settore della moda, di conseguenza anche quest'anno appunto la crisi generale, gli stock di invenduto nei negozi sono alti e l'offerta per i saldisti è molto ampia, sia per varietà che per qualità dei prodotti, prevediamo sconti medi elevati oltre il 40%, sarà così? Beh sì, guardi, il fatto è che comunque il 2010 è stato un anno orribile dal punto di vista dei consumi, pertanto effettivamente le imprese commerciali cercano di recuperare attraverso questi sconti. Varieranno dal 30 al 50%, il 40% è giusto la media, 30% sui capi meno soggetti alla moda, il 50% sui capi evidentemente più soggetti alla moda che usciranno dal mercato più rapidamente. Presidente Massoletti, abbiamo un minuto di tempo, poi naturalmente vado Luca Marzola di Fashion District, perché ci interessa anche analizzare la realtà degli outlet, quindi delle cittadelle della moda, ma per tutti quei negozianti che per vivere in maniera un po' più serena anche per loro, perché poi alla fine anche i commercianti hanno famiglie e quindi sono delle attività evidentemente che producono reddito per nuclei familiari, per quei commercianti che hanno già praticato sconti molto ampi nel periodo natalizio, non li hanno definiti saldi perché i saldi sono solo quelli ufficiali che partono adesso all'inizio dell'anno nuovo, ma insomma, come lei sa, anche se poi non si possono definire nello stesso modo, molti appunto dei vostri associati si sono già avventurati nel terreno degli sconti a partire da diverse settimane fa, insomma, che ne pensa di questa tendenza? I saldi non sono iniziati, non sono stati anticipati nei negozi, diciamo che in alcune regioni ci sono eventi promozionali che permettono comunque una percentuale di sconto anche nei giorni e nelle settimane prima dei saldi, però in linea di massima i negozi tradizionali italiani hanno anche una clientela affezionata che cercano di trattare bene, ecco. Certo. Pertanto è un po' nella tradizione anche nel modello di gestione dei negozi tradizionali quello di andare incontro ai propri consumatori cercando di favorirli, ma questo indipendente dal fatto che sia presaldo o non presaldo, è proprio così un atteggiamento di favore che i negozianti hanno nei confronti dei propri clienti. Benissimo, ci fermiamo, abbiamo la prima pausa, 800 24 00 24, poi comincio naturalmente a sentire anche voi, a leggere tutti i vostri numerosissimi messaggi che stanno arrivando, a tra pochissimo. Eccoci ritrovati insieme a Salva Danaio, questa mattina si occupa di un tema tradizionale per questo periodo dell'anno, l'avvio della stagione dei saldi, come sapete un avvio scaglionato a seconda delle varie realtà territoriali, ma si è già partiti al sud il 2 gennaio a Napoli, a Potenza, Palermo, Catanzaro e Campobasso, per la nostra felicità a Milano si prende il via nella giornata dell'Epifania il 6 gennaio e poi via via ad andare insomma avanti con le altre regioni fino all'8 gennaio, insomma questo è il limite massimo di avvio della stagione degli sconti. 800 24 00 24 per raccontarci e le vostre testimonianze. Ci sono, vedo, anche molti commercianti che vorrebbero dire la loro su questo aspetto, non tanto sulle aspettative rispetto a questa stagione dei saldi 2011, quanto al fatto che invece appunto proprio per affrontare la crisi, ne parlavamo poco fa, molti negozi hanno già fatto partire promozioni individuali da molti mesi addietro, non è la stagione ufficiale dei saldi quella, ma sono generalmente appunto promozioni, come Carlo Massoletti di Confcommercio ci spiegava, per evidentemente contribuire a fidelizzare ulteriormente già la propria clientela. Insomma, ci sono tante cose da raccontare. Volevo sentire Andrea dalla provincia di Genova, che è il nostro primo ascoltatore, poi vi ho promesso gli outlet, ci andiamo fra qualche istante. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io sono la vostra ascoltatrice. Ah, quindi è un Andrea al femminile. Andrea, buona giornata. Ascolti, io avevo già telefonato l'anno scorso per lo stesso identico motivo, perché io ho un negozio a Santa Margherita e dunque qui c'è una situazione tragica, a parte che poi Santa Margherita Ligure non è che sia esattamente frequentata da, come dire, il ceto medio, a parte che abita lì, però no, ma adesso cosa vuole? Adesso anche purtroppo, perché è un po' decaduto come turismo in generale. Però noi quello che ci salva sono sempre gli stranieri. Però ovviamente d'inverno, scusi, fatto le scale. È in affanno. Si fermi un attimo. Ovviamente d'inverno ce n'è meno. Però vede cosa c'è? Che qui ci sono, io non ho griff, perché proprio mi rifiuto. Però chi ha le griff non fa niente. E aspettano tutti che arrivino i saldi. Guardia Sestri Levante, Chiavari, tutte queste zone qui, che tutti hanno queste griff, aspettano i saldi perché le prendo a metà pezzo. Certo. E in più noi abbiamo anche l'outlet su a Serravalle Scrivia. Ah, sì. Per cui, ma ora io mi domando, queste grandi ditte, firme, che fanno queste distribuzioni negli outlet, alla grande in questo modo, ma cosa pensano di fare in futuro? Perché è proprio un declassamento, perché la Andrea, gente io non posso, le compra più. Posso condividere anche la sua frustrazione. Detto questo, è un po' il ragionamento che facevo anche un anno fa, sentendo, forse erano le sue stesse lamentele, magari adesso le sto anche ricordando, come potevano essere quelle di qualche altro suo collega. Ma se il mercato chiede questo, se i consumatori chiedono questo, non è giusto accontentarli. Secondo lei, evidentemente, a volte io capisco che magari lei possa offrire nel suo negozio un capo di grande qualità, magari ad un costo un po' più elevato, ma se non tutti possono permetterselo, perché non permette loro comunque di acquistare un capo griffato ad un costo più contenuto, magari della stagione precedente, ma accontentarlo? Se il mercato chiede questo, lei non pensa che si debba andare in questa direzione? Io avevo un magazzino di tutte ditte validissime, italianissime e tutto. L'anno scorso di 50.000 euro ho preso 7.000 euro, ho dovuto fare uno stockista, perché io non potevo più permettermi di avere un magazzino, perché era meglio fare così che tenere un magazzino che mi uccideva dalle tasse. Ho capito. Andrea, sentiamo un po' cosa ne pensano gli attori che operano in questo settore. Riparto con Massoletti, perché credo che la frustrazione dell'ascoltatrice di Genova sia abbastanza comune fra i vostri associati. Tra l'altro qua si introduce anche un tema molto più ampio, che è un po' quello del declino del piccolo negozio, no? Che fa molta difficoltà a sopravvivere, magari non un po' meno nelle grandi città, ma magari nei piccoli centri. Sì, Massoletti, quante volte ne ha sentite di riflessioni come quella dell'ascoltatrice che abbiamo appena lasciato? E purtroppo tante in questi ultimi tempi. Direi che questo è proprio sintomatico di un modello di gestione delle piccole imprese commerciali che sta cambiando. È evidente, diciamo così, che questo concetto di massificazione del lusso che negli anni 80 e nei primi anni 90 sembrava che fosse una cosa alla portata di tutti, oggi questo concetto non è più attuale. Le piccole imprese devono ripensare un attimo i loro modelli di gestione e devono ripresentarsi al pubblico con dei prodotti che hanno un rapporto qualità e prezzo più equilibrato. Cioè oggi magari un consumatore, piuttosto che mettersi addosso un capo griffato, preferisce mettersi addosso un capo di buona qualità a un prezzo corretto. Perciò questi modelli di gestione vanno assolutamente rivisti. Luca Marzola, allora riesco finalmente a coinvolgerla nella nostra conversazione di questa mattina, responsabile marketing di Fashion District, la grande cittadella della moda, che a Mantova ma anche in altre due località, va al Montone e a Barletta, l'altra pugliese mi pare, non me la ricordo, a la Molfetta. Terza Molfetta. Molfetta nord di, sì, Bari. E allora, avete massificato il lusso, questa è l'accusa che vi attribuiscono e che vi rivolgono da tempo, e però insomma non solo voi resistete, ma continuate ad avere un grande successo tra il pubblico dei consumatori, segno che è quello che si chiede, o insomma c'è anche una sorta di politica commerciale che non voglio definirla scorretta, perché operate assolutamente correttamente sul mercato, però molto aggressiva, che comunque mette in difficoltà anche i piccoli. Anche no, voi chissà quante volte vi siete sentiti rivolgere in sostanza considerazioni di questo tipo. Ma certamente, diciamo, c'è un conflitto tra le strutture distributive come la nostra e quello che può essere, diciamo così, il dettaglio tradizionale. Resta il fatto che, come diceva lei, secondo me giustamente prima, noi dobbiamo, o comunque l'azienda, l'impresa deve proporsi sul mercato seguendo quelle che sono le volontà e i desideri del consumatore e cercare di soddisfarli al meglio. Noi comunque, vorrei ricordare, proponiamo attraverso il format outlet normalmente delle collezioni non aggiornate, e lo facciamo con degli sconti ovviamente molto interessanti, che nell'occasione dei saldi, vorrei ricordare, diventano ulteriormente interessanti, perché ad uno sconto si aggiunge un altro sconto, e lo facciamo garantendo ovviamente una certa qualità, una certa sicurezza d'acquisto al consumatore e una certa sicurezza, vorrei dire, anche alla società produttrice, che in questo modo può smaltire delle eccedenze controllandola, controllandolo direttamente la filiera ed evitando che queste eccedenze possano finire diciamo così su delle bancarelle o comunque svilendo in qualche modo il marchio su cui ha tanto lavorato. Quindi insomma un modo anche per continuare a mantenere dignità ai capi che altrimenti troverebbero altra destinazione, come diceva Marsola, meno dignitosa. Tra l'altro leggevo ieri che un altro grande outlet, quello di Vicolungo, The Style Outlet, per i quali i saldi sono già partiti il 2 gennaio, nella prima giornata questo centro ha registrato qualcosa come 50.000 visitatori. Marsola, voi in tutti i vostri 3 centri, per una coincidenza fortunata o sfortunata, non lo so, perché altre regioni vicine invece hanno avuto l'opportunità di partire prima, partite il 6 gennaio, che aspettative avete? Ma abbiamo delle aspettative ovviamente buone. Buone perché l'anno scorso il periodo dei saldi venali è stato a dir poco strepitoso, con crescite del volume d'affari anche del 20%, per cui già ripetere il risultato dell'anno scorso sarebbe per noi di enorme soddisfazione. E abbiamo delle aspettative buone anche perché dicembre e novembre, fine novembre e dicembre, anche causa meteo, non sono stati eccessivamente positivi, per cui in questo caso i negozi sono estremamente riforniti e pensiamo di poter soddisfare molta clientela. Allora, intanto avevo anche spento il microfono, pensate quanto sono intelligente stamattina. Dobbiamo anche dare, perché poi lo spirito di Salvadanaio è anche quello, tutte le istruzioni per l'uso, per ovviamente fare un acquisto oculato in questa fase, per approfittare dei saldi, non fare degli acquisti in maniera sprovveduta, ma naturalmente cercare di capire anche, l'importante è questo, come il commerciante deve comportarsi con noi, quanto tempo ci dà se il capo non ci va bene per poterlo cambiare, possiamo usare o meno le carte di credito e la moneta di plastica, appunto, perché molto spesso qualche commerciante nel periodo di saldi non dà questa opzione. Insomma, dobbiamo andare appunto proprio anche al tema delle istruzioni per l'uso. Prima però un altro ascoltatore, poi vorrei sentire anche su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora l'Associazione dei Consumatori. Intanto Francesco da Roma. Buongiorno. Buongiorno, io volevo contribuire, sono un ex confezionista romano. Sì. Ma qualche anno fa, diciamo forse anche 10, nei miei laboratori io non facevo altro che confezionare in questi periodi abbigliamento per i saldi. La rimanenza di stoffa, di capi, venivano confezionati per poi darli ai commercianti a un prezzo molto molto particolare, capito? Specialmente ai grossi magazzini. Ed è un'abitudine che forse anche adesso c'è. Che anche, ma senta Francesco, confezionava in maniera meno qualitativa i capi per questo frangente, per questo periodo dell'anno? Guarda, a livello qualitativo doveva sbrigarsi, diciamo, un po' di più, quindi di confezionare era sempre lo stesso. Era un po' che c'era meno guarniture, meno accessori. E il capo veniva un po' tolto dagli accessori che portavano il prezzo un po' più alto. Ecco, lei ci ha voluto ricordare questa parte della sua vita, ma secondo lei era una cosa così negativa per il mercato? Cioè il fatto di dedicarsi in maniera particolare, che un confezionista in un particolare frangente dell'anno si occupi di una produzione che ma viene... Ma se vanno in campagna, adesso io lo ripeto, da molti anni non lavoro più in abbigliamento, ma lo fanno anche adesso in campagna, ma anche al nord. Qual è e che cosa c'è di male, Francesco, secondo lei? Perché non riesco a capirlo? Che cosa c'è di male? No, non è che cosa c'è di male, vuol dire confezionare il capo, il saldo, che è una qualità abbastanza scadente, farlo passare perché un qualcosa perché quindi ammette che comunque se si confeziona in questo periodo la qualità ne va meno. No, infatti era quello che volevo portarla a dire, che comunque mentre prima mi sembrava che lo avesse in qualche maniera negato, invece è chiaro che se si produce in maniera un po' più intensa solo per indirizzare i capi prodotti adesso nel mercato dei saldi, è chiaro che la qualità ne va a perdere. Primo Mastrantoni, vengo all'ADU, che insomma metta un po' insieme tutti i tasselli che abbiamo così collezionato fino a questo momento. Sì, ma diciamo che tanto noi, ripeto, non facciamo previsioni né in crescita né in decrescita, l'ADUC non ha mai fatto, quindi lasciamo questo. Responsabilità per quello che dice, ma comunque alcuni consigli per gli acquisti. Intanto il cartello che qualche volta abbiamo visto nei negozi, la merce venduta non si cambia, non è completamente vero, la merce venduta non si cambia se la merce è intatta, ma se c'è un difetto, se la merce è difettata, la merce si cambia come? Però se io voglio cambiare un maglione blu con un altro bianco, allora non ho titolo io, consumatore, a pretendere il cambio della merce. A meno che non ci sia la disponibilità del commerciante, che può naturalmente esserci, certo, no? Che ne so, io devo regalarlo quel maglione, il destinatario allora, non ha... è più un diritto, è un'opzione che il commerciante fa. In genere poi, se non c'è proprio l'altro, il maglione bianco che cercavo, il commerciante emette un buono, quindi per venire incontro al consumatore. No, ma dal punto di vista del diritto, il consumatore ha diritto al cambio della merce se è difettata, cioè se in una camicia gli mancano le asole, facciamo un esempio estremo, sembra no? Condizione essenziale insomma, affinché si tratti di camicia. È chiaro che va cambiata. Se una camicia è un maglione è blu e voglio cambiarlo in bianco, non ho diritto a richiederlo, ma il consumatore si rimette alla cortesia, alla disponibilità del commerciante. Questa è una delle cose più importanti. Guardi, la devo fermare perché devo andare in pausa, poi con le raccomandazioni continuiamo più avanti, ma Strantonio, ancora un minutino di pazienza. Mi è piaciuto moltissimo nel vostro elenco delle istruzioni per l'uso, quello elaborato proprio dall'ADUC, il punto 4, ricordarsi che prezzi tipo 49,90 euro vuol dire 50 euro e non 49. A tra poco. Allora, adesso completiamo il quadro e la rosa delle istruzioni per l'uso dei saldi, ma siccome c'è il tema outlet, che vedo che ha appassionato due ascoltatori che hanno una considerazione di questo mondo radicalmente opposta, li vorrei sentire entrambi e poi tornare a Luca Marzola e anche a, appunto al nostro rappresentante di Confcommercio. Tina, dalla provincia di Milano, buona giornata. Buona giornata, dottoressa Rosciani. Ci dica tutto. Ma diciamo che io sono un po' un esperto del settore, nel senso che io ho sempre lavorato un po' nell'abbigliamento, ho anche avuto negozi eccetera, e quello che volevo dire sugli outlet, che non è proprio così come la vendete, nel senso che oramai la produzione dell'outlet, ecco, mi rifaccio anche all'intervento della signora di Santa Margherita, ha ragione, nel senso che oramai i negozi sono diventati gli outlet, la gente oramai non va più in negozio, va in quello. Anche però... perché sono nati, Tina, le faccio solo questo inciso, anche con uno spirito abbastanza particolare, certo sono cittadelle della moda nelle quali spesso andando insomma si porta tutta la famiglia, si passa l'intera giornata, si fa un giro, si fa proprio quasi la scampagnata, non è che si va lì solo perché si deve acquistare il maglione, magari si approfitta. Ormai vivono negli outlet, esatto. Si dorme quasi, ecco, e quindi è diventata una moda. Non gli faccia pure venire in mente di allestire qualche albergo, perché magari pensano pure a questo, insomma, delle scampagnate per i turisti che possano durare più giorni, ma credo che ci siano già iniziative di questo tipo, portare dei turisti proprio in queste cittadelle della moda e farli stare lì un bel po' di ore. Ecco, però quello che volevo dire è che per quanto riguarda le grandi firme, qui bisogna fare una specifica. Allora, su quello sono d'accordo, perché le persone che comprano le firme sono delle fashion victim, ma diciamo all'80-90% sanno benissimo qual è il capo, perché prima magari hanno fatto il negozio Milano, Via Spiga, parlo di Moncler, parlo di nome. Un acquisto miratissimo. E quindi sanno benissimo che se è il capo dell'anno prima o di due anni prima, eccetera. Oramai le riviste, ci sono prezzi, vabbè. Sono d'accordo per il resto invece non vorrei dire la parola truffa, però sono prodotti assolutamente soltanto per gli outlet, addirittura una catena di underwear biancheria che mi è stato detto proprio da loro, ha detto: lei guardi il cartellino, uno sono i fine serie, quell'altro è quello prodotto per l'outlet. Diciamo che c'è molta fuffa, diciamo noi a Milano. Cioè lei mi sta dicendo che le hanno indicato addirittura un cartellino dove questo è scritto? Dire anche la catena, guardi se vuole. No, ma a parte il dire la catena, però mi ha detto una cosa importante. Se è indicato nel cartellino, il consumatore fa un acquisto consapevole, non vedo anche qua che cosa ci sia di male nel fare delle produzioni apposite per gli outlet. Luca Marzola, ci dica un po' come stanno le cose. Allora, perché tra l'altro proprio lei prima aveva detto, sì, nella gran parte dei casi, per quello che riguarda la nostra attività, mettiamo in vendita collezioni degli anni precedenti. Questo è un tema che spesso è stato appunto affrontato quando parliamo di questo argomento e della vostra realtà. Sentito quello che diceva Tina? Sì, l'ho sentito. La normalità non è questa, nel senso la normalità è che negli outlet si trovano collezioni degli anni precedenti, però non fuggo, diciamo così, dalla domanda anche provocatoria della signora. È vero, certi produttori che sono presenti nell'outlet sviluppano delle produzioni ad hoc per queste realtà, però non rappresentano la normalità e normalmente sono indicate, e di conseguenza il consumatore ne viene a conoscenza. Ecco, l'importante infatti è che il consumatore lo sappia. Sento un'altra riflessione di Luigi da Firenze per poi andare a Massoletti di Confcommercio, al quale ho un paio di cose da chiedere. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei proprio l'outlet non lo sopporta? No, perché ci vado, li frequento, eccetera, eccetera, ed è giusto che ci siano, però mi rifaccio un po', che forse la signora in precedenza mi ha bruciato l'intervento, ma sostengo per esperienza personale e da consumatore, non ho girato tutta l'Italia, ma insomma per esperienza personale, che buona parte, secondo me, degli outlet è una produzione apposta per gli outlet, con quindi la massificazione della grande firma c'è, ed è giusto che ci sia, però non è l'articolo che si trova nel negozio, e di questo ne sono certo, con prove possiamo andare a vedere i negozi, che poi, quindi secondo me è roba più scadente di quello che è giusto comprarla, è un modo, non penso, ci trovo niente di male. Per chi non potrebbe mai permettersi magari una bella maglietta di Prada, magari va all'outlet, ne compra una di qualità leggermente diversa, però ha quella targhettina attaccata addosso e magari si sente un po' griffato, cosa che magari non potrebbe permettersi nel corso dell'anno. Lo dobbiamo proprio demonizzare, un atteggiamento di questo tipo, Luigi? No, dico, visto che lei ha fatto un nome, ne faccio un altro, se posso, di un marchio, farlo. Non ci denunceranno per questo. Cioè, se mi devo comprare una maglietta Ralph Lauren a 50 euro, a 40 euro, che in realtà c'ha solo il cappello, che secondo me non è nemmeno tanto uguale a quello del negozio. Però c'è un bel made in China dietro, un made in Turchia. È meglio comprarsi, posso dire, vado in un altro argomento, rispetto a qualche outlet, forse oso, vorrei essere denunciato, sono meglio i falsi. Sì, non è colpa dell'outlet però quello, Luigi, è colpa di Ralph Lauren e di quello che mette in distribuzione, quello che permette che venga messo in distribuzione il suo marchio. Voglio dire che prendere in cena una produzione legittima, eccetera, eccetera, ma sono altre cose, ma ti posso fare, l'elenco delle, di dirlo solo io, insomma, ma è giusto, la gente lo compra consapevolmente, non voglio dire, Il tema è anche quello, Luigi, voglio dire, oggi una sua riflessione chiara come quella che ha fatto lei, credo che siamo in grado di farla tutti quanti, il tema però è saperlo e andare in cerca quindi dell'acquisto per il quale appunto possiamo approcciarci in maniera totalmente consapevole. Carlo Massoletti, vengo a lei. Il tema dei confezionisti, come quello che ci sollecitava l'ascoltatore da Roma, che producono in maniera molto intensa in questo periodo solo ed esclusivamente per i negozianti che devono mettere in commercio appunto capi per i saldi. È questa la realtà? Ma guardi, non escludo che questo si possa verificare, però devo fare un'osservazione a margine di questa riflessione. La consapevolezza del consumatore rispetto al prodotto, alla qualità del prodotto, ai marchi e alle anche qualità del servizio dei negozi sta crescendo, è cresciuta molto negli ultimi anni. Ora io credo che questo sia una discriminante forte, cioè oggi il consumatore è consapevole di quello che acquista, va nei negozi e va abbastanza deciso, va presso i negozi che sa che sono seri, va a cercare dei prodotti che sono prodotti che magari ha già visto, ha già potuto vedere qualche settimana prima, a prezzo regolare, pertanto sa qual è la giusta quotazione di quel prodotto, eccetera, eccetera. Cioè, ho l'impressione che sarà un po' il consumatore a fare, come dire, anche di questi comportamenti un pochettino elusivi rispetto al tema dei saldi, a fare giustizia. Ecco, con una riflessione più attenta e con un approccio più attento al consumo. Da parte delle imprese resta la necessità, e questo è il grande sforzo che tutte le imprese di commercio stanno facendo, di essere sempre più trasparenti verso i consumatori, in modo tale da mettere in condizione il consumatore di fare l'acquisto più corretto per le proprie necessità. Massoletti, due indicazioni per avere adesso le associazioni dei consumatori le chiamano fregature, ma non avere fregature in questo periodo, nel senso, intanto la merce venduta non si cambia, è un atteggiamento che dobbiamo accettare dal nostro venditore o no? Ma guardi, allora la merce venduta di fregatura in saldo, perché e voglio dire che forse raggiungerà il 2% del volume delle vendite, facendo così una stima, anche qui facciamo una stima, però non supera il 2% dei casi, perciò parliamo di una percentuale molto ridotta. Poi per quanto riguarda il resto, evidentemente corrisponde un po' alla discrezionalità del negoziante. Voglio ricordare che il negoziante produce un servizio e nel momento in cui abbassa, diciamo così, il prezzo, questo servizio viene sicuramente meno rispetto a un periodo di vendita normale, perciò è direi che è gioco forza che il consumatore poi si debba aspettare un minor servizio che sta anche in una minore disponibilità magari a cambiare il prodotto, in una minore disponibilità a fare un pacchetto regalo, in una minore disponibilità magari anche nel seguire il cliente in maniera più assidua rispetto e poi, a quanto speriamo si che possa fare un commerciante che ha un atteggiamento di questo tipo ovviamente ne paghi le conseguenze e veda sempre meno clienti nel suo negozio. Detto questo, è vero quello che ci dicono molti commercianti Massoletti che in periodo di saldi non si possono accettare carte di credito o bancomat? No, allora direi che anche questo è un dato non sta così. Ormai la maggioranza delle imprese accettano bancomat e carte di credito. Voglio però ricordare che carte di credito e bancomat costano all'impresa commerciale, hanno un costo e questo costo poi evidentemente deve essere poi alla fine ricaricato sul prodotto. Se non viene ricaricato nei tempi dei saldi, viene ricaricato sui tempi, diciamo così, di vendita regolare. Pertanto anche qui è un qualche cosa in più che il consumatore paga poi alla fine in termini di valore aggiunto al prodotto. Allora, mettiamola così che possiamo essere comprensivi nei confronti del commerciante, se facciamo un acquisto di importo abbastanza piccolo, chiaramente se poi svuotiamo mezzo negozio non è ragionevole che il commerciante ci dica che la carta di pagamento non la possiamo usare, la possiamo mettere così, ecco, così giustifichiamo anche il costo che il commerciante questo deve sostenere. Questo mi sta assolutamente bene, però voglio dirle che ormai quasi tutti lo accettano e questo di questi problemi, se hanno fuori il tagliando esposto nella vetrina è giusto che il consumatore lo pretenda ed è altrettanto corretto che il rivenditore lo faccia. Senta, un'ultima considerazione perché poi devo andare alla nostra rubrica previdenziale. Allora, ci sono molti ascoltatori che lamentano. Allora, dice, noi vediamo adesso i prezzi degli articoli in saldo che sono di un certo tipo, ma magari, come dire, prima delle vacanze, prima dell'avvio ufficiale della stagione dei saldi, i prezzi erano magari un po' più bassi. Qualche commerciante ci prova, mette adesso sul cartello un prezzo più alto che poi ribassato risulta essere esattamente quello praticato prima dell'avvio dei saldi. Se ci accorgiamo che un commerciante ha fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Denunciarla a voi? Ma guardi, sì, io mi fa piacere che i consumatori stigmatizzino questi comportamenti, perché anche noi li stigmatizziamo come confederazione, come associazione di imprese, perché vogliamo assolutamente che le nostre imprese siano corrette nei confronti dei consumatori. Pertanto quando i consumatori si accorge che c'è un negozio che fa una cosa di questo tipo, la cosa migliore da fare è evidenziarlo ai propri amici, trasferire questa informazione e fare in modo che questo negozio poi perda il suo clientele e perciò venga emarginato dalla rete commerciale corretta, perché è giusto che sia così. Infatti io mi ricordo addirittura un ascoltatore che ce l'aveva raccontato un anno fa, addirittura due anni fa, si era preso la briga di fotografare con il proprio cellulare il prezzo delle scarpe che voleva prima dell'avvio dei saldi e poi praticamente aveva riscontrato esattamente la situazione che le ho descritto. Quando i saldi sono partiti, lui è andato a mostrarle al commerciante, se non ricordo male poi il commerciante l'aveva accontentato con il prezzo, ma in realtà questo ci aveva provato, cosa che si verifica anche negli outlet, ci segnala qualche ascoltatore, ma io adesso non riesco purtroppo ad affrontare questo tema anche con Luca Massola di Fashion District, perché dobbiamo andare alla nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. E allora noi stiamo andando avanti in questa collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Abbiamo le pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Il concetto di oggi è pensione di vecchiaia contributiva. Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Per poter accedere alla pensione prima dei 65 anni, l'importo del trattamento pensionistico deve risultare almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Inoltre, il conseguimento della pensione è subordinato alla condizione che gli interessati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di decorrenza della pensione. E allora, noi abbiamo terminato anche oggi la nostra trasmissione. Peraltro volevo segnalarvi, perché se ne sta occupando la nostra Laura Bettini, che mi risulta molto probabilmente domani mattina se ne occuperà a 24 mattino, il tema dell'apertura della domenica dei negozi, perché c'è stata questa iniziativa di CGIL, CISL, UIL e di Reggio Emilia, che hanno indetto uno sciopero dei lavoratori del commercio proprio per il 6 gennaio per protestare contro l'apertura dei negozi in una giornata festiva. E insomma, partendo da questa notizia di cronaca, Laura si occuperà anche dell'eventualità che i negozi negozi possono aprire tutte le domeniche. Ci sono ovviamente delle posizioni nettamente contrapposte su questa eventualità. Sarà interessante domani mattina seguire anche il suo dibattito. Intanto ringrazio Carlo Massoletti, Federmoda Confcommercio, Primo Mastrantoni di Aduc e Luca Marzola di Fashion District, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, con la quale magari giovedì faccio un giro per negozi per Milano, così vi dico cosa abbiamo combinato noi, Filippo Aureggi in assistenza tecnica e Salva Danaio intanto torna domani. Buona giornata a tutti.